l'alterità, che è proprio quella che è, ops, vedo tante lineette rosse, l'alterità che è proprio quella che permette il cambiamento, il più delle volte, rimanere statici e fermi nelle proprie posizioni e nelle proprie idee, magari credendo di avere il verbo assoluto. Beh, non ha mai fatto, è una cosa che non ha mai fatto bene a nessuno e che sicuramente non permette di andare avanti. Ebbene, io dubito che dovrei rifare una nuova prova microfoni, ma non so. Ma no, io direi di no. Siamo sicuramente lì a perseguire il progetto ultimo e finale di transizione di fase, ovvero fare le trasmissioni alla Cicciosvelo. E perché questo è proprio uno di questi, è proprio uno di quei casi, una trasmissione estemporanea. Benissimo. Io credo che ce la possiamo fare, vai. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. E ora dunque, ecco qui che ci troviamo innanzi a un fantastico foglietto fucsia con una bellissima immagine dove c'è scritto Invisibili. Sto parlando cioè di quella che è la locandina, il flyer con il programma dell'undicesima edizione di Fiera Immensa. Ricordo che oggi sabato 17 marzo si è già svolto in realtà un incontro con i volontari di Fiera Immensa. Infatti l'associazione calafrica, avete già sentito Carlos negli scorsi giorni, che ha effettuato una presentazione, una mostra, cioè scusate, è una discussione su Thomas Sankara, il visionario. Per chi non lo sapesse, Thomas Sankara è un importante personaggio della cultura e della storia africana, una storia molto variegata che noi disconosciamo nel modo più assoluto, e questo lo dobbiamo accusare come colpa, ce la dobbiamo accusare davvero come una colpa. Invece alle ore 22 presso le officine Babilonia, che sono proprio quelle attaccate al Mocimo, praticamente siamo dall'altra parte, ma nel nostro cuore è sempre le officine Babilonia. Infatti vi ricordo che le officine Babilonia sono la sede dalla quale trasmettiamo il nostro fantastico programma Figli di, che prima o poi arriverà in diretta, ora è in fase di lavorazione, ma non dubitate. Ma io non ando al programma sabato 17 marzo, quindi questa sera alle ore 22 ci sarà Meron e Co, un non meglio specificato Co, in concerto, e a seguire ci sarà un DJ set di Cuda. La Cuda in dialetto cosentino significa coda, non sappiamo se no, sarà un io non conosco, sarà una figura di merda, lo so, è praticamente la persona che mette i dischi, sarà il cognome, bah, crediamo, o sarà un nickname, no, non sappiamo. Poi voglio ricordarvi anche gli altri appuntamenti previsti, cioè quello di domenica 18 marzo sempre all'officina di Babilonia, ci sarà questo incontro con i volontari a sorpresa. Attenzione, attenzione, perché se non ci boicottano ancora una volta, forse potremmo avere con noi una fantastica esperienza di laboratorio in diretta. Infatti era previsto in realtà un laboratorio della nostra amica Coessenza, ma ci sono dei problemi, e quindi la editrice Coessenza non potrà essere qui. E invece alle 22 marzo ci saranno i Baschini in concerto, vi consiglio ovviamente di venire a sentirli perché suonano veramente veramente bene. Mi dicono che la mia voce è attaccata al microfono, gracchia, e che ci volete fare? Mi attacco, e va bene, vabbè. Ok, mi allontano un attimo perché bisogna sempre allontanarsi quando le cose vanno male, prendere le distanze soprattutto. Ma a seguire comunque, sempre domenica 18 marzo, avremo un altro DJ set di Mamma Africa, che non è stato il primo, no, è il primo di Mamma Africa, e sarà sicuramente un simpatico DJ set. Mentre l'ultimo giorno, cioè il giorno clou della fiera, il giorno in cui si festeggia, i cattolici ovviamente festeggiano un loro idolo, un santo, fece il falegname, mi hanno detto, non lo so. Insomma, ci sarà questa giornata della festa di San Giuseppe, e alle ore 18, sempre alle officine Babilonia, ci sarà un incontro con i volontari, nel quale Ibrahima Diop parlerà di Africa, risorse e conflitti, cooperazione. mentre alle ore 22 ci sarà un simpatico DJ set di Yayo e Italuzzu. Ebbene, che cosa dire, questo simpatico programma di Fiera Immensa è sempre più simpatico e carino. Oddio, eri un ragazzino così carino, pigro di testa e ben vestito, non mi veniva il termine. Comunque è una bella canzone questa degli CCCP, che ogni tanto potrete anche ascoltare dalle frequenze della nostra fantastica radio, cioè Radio Transizione di Fase. Ora mi dicono brava, si sente perfetto, ah che bello, sono emozionata, sono veramente emozionata di tutti questi complimenti che mi giungono, che giungono nella direzione della mia persona, e mi fa sentire anche molto fiera di me questo fatto, visto che ho montato tutto da sola. Wow! Però, in realtà, che cosa è successo questa sera? È successo qualcosa di molto, molto triste. Molto triste perché, con tanto amore e tanta dedizione, i transitori di Fase Cosentini hanno, negli scorsi giorni, allestito questa fantastica postazione all'interno, ripeto, del Movimento per la Cooperazione Internazionale, cosiddetto MOCI. Ebbene, che cosa è accaduto? Ci sono, magari se qualcuno gira su Facebook potrà vedere, e ci sono degli striscioni molto belli, un banner arancione che è veramente la fine del mondo, ragazzi, ve lo assicuro, è proprio bello, è scritto a mano, tutto micidiale. Poi ci sono il nostro logo disegnato a mestiere, veramente ad arte. Un logo molto bello, fra le altre cose, ce lo vantiamo questo fatto. E poi c'è anche il nostro progetto esposto, l'ho un po' sintetizzato, devo essere sincera, ma non ci stava tutto nel cartellone, d'altra parte non si può avere tutto nella vita. Però a un certo punto che cosa accade? Avevamo fatto anche una piccola bandiera, una bandiera per noi molto significativa, cioè quella della Notav, che era messa in un luogo che non dava fastidio, cioè non so. Fatto sta che oggi al nostro arrivo in postazione non c'era più, sono rimasti gli striscioni, sono rimasti i cartelloni, sti cazzi, la bandiera Notav. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che evidentemente molte persone che fanno parte di Fiera Immensa non sono vicine alla lotta Notav. Questa cosa ci fa schifo, ma lo diciamo? Ok, l'abbiamo detto, ci fa schifo, se posto che il nostro manifesto sia stato trafugato. Nel caso contrario, cioè che sia andato smarrito per una pura casualità, e vabbè, allora ritiriamo tutto. Però io volevo ricordare ai nostri ascoltatori che quello che sto raccontando è una storia vera, e che le parole molto calme che sto utilizzando le sto utilizzando solo ed esclusivamente perché altrimenti dovrei gridare, dovrei veramente mandare a fanculo tutto, sbambare tutto. In senso metaforico lo dico questo, perché sennò poi mi accusano di essere magari un'incendiaria, che ne so. In realtà non capisco per quale motivo una bandiera, un'immagine Notav sia stata censurata, perché di questo si tratta. Ebbene, Transizione di Fase non si ferma qui, siamo in un luogo che forse allora non ci è amico, e ne prendiamo atto. Soli qui a resistere contro tutto e contro tutti, abbandonati anche dal nostro compagno Ernest, che si è rifiutato di essere qui. E va bene, che ci possiamo fare, Ernest? Noi te l'abbiamo detto, vieni con noi, facciamo massa critica, sti cazzi di massa critica, niente. E va bene, e va bene. Ad ogni modo, ecco, Ernest no, ok, ora riferirò. Grazie a PsyloCibe che mi dice dalla chat che questa cosa di Ernest non si può dire e non si può ascoltare. Ad ogni modo, noi rimaniamo molto molto tristi perché i nostri simboli, le nostre, le cose non toccare, non sono accettate qui nella nostra postazione. E va bene, noi ne prendiamo atto, ma non sarà sicuramente questo a bloccarci. Ci spiace solo che era una bandiera molto carina, era veramente fatta veramente bene. E dunque, dopo questo momento di riflessione, diciamo così, possiamo comunque cercare magari qualche persona che vuole dialogare con noi. Magari molti hanno paura di parlare con i pericolosi no global, con la pericolosa transizione di fase.org, perché cazzo sicuro, io lo so, la gente ha paura di noi, e questo ci rende estremamente felici, estremamente gioiosi, estremamente contenti. Sì, siamo contenti, questa è la cosa che possiamo dire. Siamo contenti di vedere che la gente ha paura di noi e ci censura. Ma la censura non ci blocca sicuramente. Quindi siamo sempre molto felici. Ora vedo però qualche faccia amica, qualche persona che secondo me potrebbe essere interessata a dialogare con noi. E io direi di mandare un po' di musica, comunque la musica di transizione di fase, una musica che è sempre tanto tanto bella e che ci piace sempre molto. Quindi a fra poco.